Cantine di Franciacorta. Bentrovati, siamo a Provaglio di Iseo, alla cantina Barone Pizzini, una produzione annua di 350.000 bottiglie, di cui 200.000 di bollicine. Primo Brut nel 1971, un momento fondamentale poi nel 98, il passaggio cioè all'agricoltura 100% biologica in vigna e a una filosofia ecosostenibile in cantina. Silvano Brescianini, socio e direttore di Barone Pizzini. Noi abbiamo una cantina costruita in bioedilizia che scende nel terreno per recuperare il fresco, ci autoproduciamo l'energia, abbiamo un impianto di fitodepurazione, però anche l'attenzione al peso del vetro, al materiale degli imballaggi, allo spessore della capsula, che inchiostri vengono utilizzati. È un percorso lungo, diciamo tortuoso, che però ci porta a prestare attenzione a tutta una serie di particolari, sempre nell'ottica di maggiore qualità abbinata al rispetto dell'ambiente. Alla prossima tappa. Vi aspettiamo al Festival Franciacorta in Cantina il 18 e il 19 settembre 2010.